Siamo al telefono con Stefania, una redattrice della rivista online XX Donne. Ciao Stefania, ben trovata. Ciao. Ciao. Allora, noi abbiamo parlato insomma altre volte di XX Donne da questi microfoni, qualcuna di voi è anche intervenuta. È un progetto editoriale sul web, è una rivista che esce bimensile, mi pare, o... È uscita per molti numeri mensilmente, negli ultimi numeri è uscita ogni 2 mesi per che iniziavano le difficoltà. Ecco, infatti immaginiamo. È una rivista di varia donnità, adesso mettere insieme i tantissimi argomenti di cui voi parlate nei vari numeri è impossibile, magari ci concentriamo anche sull'ultimo numero uscito per insomma dare un'idea. E comunque è una rivista che si può stampare, voi andate sul sito, poi ve lo diamo. E si stampa da sole e ha anche una cura insomma grafica particolare, per cui vale stamparla, insomma non è proprio un contenuto da web, da sito web, ecco. E... sì, questo era uno dei nostri obiettivi, avere una rivista online, però una vera e propria rivista, quindi con una con la grafica tipica e curata come quella di una rivista e non di un blog o di un portale come già c'erano, insomma. L'idea era quella di coprire quello che secondo noi era un vuoto dal punto di vista delle proposte editoriali e quindi impostarla esattamente in questo modo. Sì, infatti. Sappiamo anche, le riviste che parlano, diciamo, di donne, in cui le donne sono quelle che effettivamente le gestiscono, eccetera, sono poche, ai noi, insomma, sì. Non sono moltissime e arrancano. Noi abbiamo, insomma, raccolto anche negli anni tante testimonianze anche da questi microfoni e noi stesse come redazione radiofonica, insomma, è un lavoro molto impegnativo, effettivamente è difficile rimanere a continuare a produrre questi contenuti. Voi infatti avete avanzato il dubbio che questo potrebbe essere anche l'ultimo numero della rivista. Sì, potrebbe essere l'ultimo numero semplicemente, sicuramente in questa forma, nel senso che lo sforzo fatto fino ad ora era quello di cui abbiamo appena parlato, ma richiede, soprattutto per alcuni tipi di figure come quelle delle grafiche, dei grafici e della segreteria di redazione, un numero di ore di lavoro che non può essere pensato come lavoro volontario. Certo. Ricordiamo l'assenza totale di pubblicità, insomma, esatto. La davamo per scontata, ma lo ricordiamo sempre. Questa è stata una scelta precisa, sì. Chiaramente una scelta precisa e voluta, che quindi si è basato totalmente sull'autofinanziamento fino ad ora, anche i compensi dati appunto a queste figure, però diciamo arrivati al 16° numero abbiamo cercato altri tipi di fonti di finanziamento, sempre cercando di escludere la pubblicità. Non è detto che sia stata forse la decisione migliore e tra l'altro se qualcuna che ci ascolta ha delle idee di sopravvivenza, noi siamo assolutamente felici di raccogliere tutti i consigli che possano venire in mente. E il problema è anche un pochino rapportare quello che è lo sforzo a cosa riusciamo effettivamente a fare, per cui abbiamo provato a contarci, abbiamo provato a lanciare questa campagna attraverso produzioni dal basso, cercando un sostegno che possa coprire quantomeno questo tipo di questo tipo di figure, anche se poi effettivamente c'è stato all'interno della lista di redazione un dibattito sui temi che ben conosciamo di sfruttamento del lavoro e precariato, e quindi la necessità anche di riconoscere in parte anche economicamente quello che era lo sforzo di alcune persone. Certo. E voi comunque appunto avevate questo obiettivo, diciamo, dei 500 abbonamenti entro la fine di giugno, quindi insomma c'è ancora un po' di tempo, poi non lo so, appunto noi speriamo che si trasformi magari in un sito web, perché comunque insomma i contenuti, gli articoli sono molto lavorati e ragionati, e per cui insomma era utile anche per noi come lavoro redazionale, insomma, ogni tanto leggere i vostri indici, andare a guardare alcuni contributi, insomma. Ma il blog molto probabilmente ci sarà, lo diamo al 90% come possibilità di esistenza, e certo la nostra speranza sarebbe quella di mantenere la forma attuale. Anche perché ci è una sorta di connotazione. Noi abbiamo immaginato XXD proprio come uno strumento di lotta, di lotta femminista, a partire dall'idea che sia la consapevolezza uno degli strumenti più importanti. E per avere consapevolezza, secondo noi, ci vogliono sia emozioni, passione, sia informazioni e pensiero. E allora l'idea era di trovare un modo che arrivasse su entrambi questi due diversi codici, quindi non solo parole e informazione, ma anche qualcosa che colpisse a livello emotivo. E da questo punto di vista la forma grafica, bisogna dire che aiuta moltissimo. Sì, immagino, sì. Sì, no, infatti, ecco, c'è da dire che questa cosa si nota, ecco, la cura grafica, anche l'attenzione alle immagini diverse da quelle che noi qui siamo tempestate, anche se pensiamo a riviste cosiddette femminili, insomma, alle varie declinazioni di alcune riviste nei giornali, eccetera, niente. Cioè, abbiamo difficoltà ancora ad essere rappresentate in qualche modo. Difficoltà è un eufemismo. Esatto. In qualche modo siamo rappresentate, però in un modo terrificante. Sì. No, infatti. Probabilmente anche non la nel cura... modo che noi vorremmo. infatti. Quindi, insomma, invitiamo anche ad andare a sfogliare i numeri, le copertine, a vedere. Poi, a proposito di grafica, in questo numero c'è Pat Carra con voi. Sì. Anche una sua, un contributo, insomma. Sì, c'è Pat, che è una nostra grande sostenitrice morale e che ci ha regalato la copertina, e c'è un articolo che parla del suo ultimo lavoro, che è Sex of Humor, che è molto molto carino. Infatti, vabbè, anche la vita della fumettista non deve essere molto facile, diciamo. No, molto bello quello che ci dice in questa intervista, perché comunque appunto lei dice chiaramente che ha sempre considerato e tuttora considera il suo lavoro come un lavoro politico. E in questo modo struttura tutto il suo agire dal punto di vista della fumettista. Questo è molto bello. Bene. Senti, poi venendo, diciamo, a, insomma, descrivere, così, tanto per dare un'idea poi della rivista in generale, questo ultimo numero che è uscito, tu poi curi anche due articoli, insomma, uno su storie di vite rubate dallo Stato, sì, le operatrici dei centri e degli sportelli antiviolenza, delle testimonianze che avete raccolto, e poi la caccia alle streghe non è mai finita. Questo sì, riguarda l'incendio del campo Rom della Continazza di Torino. Esatto. Non so se vuoi farci un breve riassunto di questi due comunque contributi interessanti. Poi del campo Rom ne avevamo parlato anche noi nelle nostre trasmissioni. Ma allora, guarda, il primo articolo l'ho fatto insieme a Natascia De Matteis, e quello voleva essere un tentativo proprio di quello che ti dicevo prima, di unire il livello emotivo al livello proprio del pensiero, perché si parla in continuazione, non è certo il primo articolo, ma neanche il centesimo, forse il duecentesimo, che dice che sono stati tagliati i fondi ai centri antiviolenza e agli sportelli antiviolenza. Però io mi sono accorta che, nonostante abbia tutte le informazioni per poter conoscere e immaginare questa situazione, e pochi giorni prima di scrivere l'articolo mi ha chiamato una mia amica che lavora in un centro antiviolenza di Alessandria, dicendomi se potevo trovare qualche contatto per una donna che stavano seguendo, che stava dormendo in stazione perché non riuscivano in nessun modo a trovargli un posto proprio a causa della chiusura di tutti i centri. E una storia raccontata così ha colpito anche me, che non era certo la prima storia che sentivo, anzi. Allora abbiamo pensato che forse, per far capire effettivamente quello che sta dietro al dire stanno chiudendo i centri di violenza, al disinteresse dello Stato, era proprio che in questo modo lo Stato ruba davvero delle vite, e da qui veniva il titolo, cioè ci sono delle storie vere dietro delle cifre e dietro il bilancio dello Stato, e quindi provavamo un pochino a passare attraverso le storie delle persone per far capire quali sono le conseguenze nella vita quotidiana delle persone. Eh sì. Mentre invece nell'articolo sul campo Rom, purtroppo è una storia ancora aperta, e spero di poter dare tutte le informazioni quando chiuderà il processo, perché c'è in corso un processo di stupro. E quindi non ci siamo sentite di esporre troppo la ragazza, che in questo momento è certo doppiamente vittima. Però ci sembrava assolutamente importante denunciare come per l'ennesima volta la violenza degli uomini voglia essere giustificata da un ipocrita e assurdo idea di protezione nei confronti delle donne. Eh sì, un tema in noi molto attuale, insomma, su cui sì, hanno giocato pacchetti sicurezza, insomma, è un bel po' di tempo che tocca, insomma, anche interrogarsi. Sì, in realtà questo, gli uomini perché non gliene frega niente della sicurezza. Assolutamente, delle donne, abbiamo ben presente. Cioè, se tu pensi che c'è stato un rogo, qualunque cosa sia, comunque un atto di vendetta così chiamata, se consideriamo qual è il numero di stupri attualmente in Italia, io vorrei vedere altri 4.000 roghi o 4.000 vendette. Se le vedessi direi sì, è vero, gli uomini vogliono vendicare le donne. No, ce n'è solo uno e ci sono altri episodi, semplicemente poi con questo tentativo violentissimo, doppiamente violento, di far credere che la loro violenza è un atto di protezione che nessuno ha mai richiesto, peraltro. Certo, va bene, questo ed altri contributi nel numero 16, che speriamo non sia l'ultimo di XXD, lo trovate nel sito www.xxdonne.net. Abbonarsi, immaginiamo, sarà semplice, no? Sì, vai si può sul fare sito attraverso sulla destra, subito vedi il link a produzioni dal basso. Naturalmente le quote vengono solo segnalate, non bisogna pagare nulla subito. Se si raggiunge poi il numero di quote totali, le persone che hanno dato la loro disponibilità a sostenere verranno ricontattate. Nell'immediato si tratta semplicemente di lasciare il proprio indirizzo mail e di dire sostengo XXD. Bene, quindi una cosa facile, è importante, insomma, salvaguardare questi spazi di autonoma espressione reciprocamente, insomma, per cui niente, buona fortuna con questa avventura e ci aggiorniamo presto, qualsiasi forma prendiate, insomma. Grazie, volevo ricordare che XXD è un progetto aperto e resta tale, per cui al di là del sostegno economico, chiunque volesse sostenerci partecipando al progetto, siamo qua, non c'è niente benissimo di chiuso, è un processo di partecipazione collettiva. Bene, benissimo, ulteriore diciamo voglia di andare a vedere appunto il vostro sito xxdonne.net. Grazie Stefania, a presto. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao.